Ej, la spada, ignoro credo, cosa è facile, loro rabbia. Sopra i muri, ignoro nome. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, fiorentini, si ne fa, sono arrivati. Dai soldi, fiorentini, si ne fa, non sono arresi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Passaggi a nord-ovest, Radio Wombat, il streaming wombat.vox.org, pagina streaming, AM1359, passaggi a nord-ovest, in replica anche il martedì alle 15.30, il mercoledì alle 18 e il venerdì alle 15.30. Potete ascoltare trasmissioni di passaggi a nord-ovest, ma anche tutte le trasmissioni Radio Wombat andando alla pagina podcast di Radio Wombat, appunto, e per ogni trasmissione c'è una sezione dedicata, e cliccandoci sopra potete ascoltare tutte le trasmissioni, tutte le puntate delle varie trasmissioni. E Tunnel Tav oggi a Radio Wombat, Tunnel Tav se ne parla un po' meno sui media mainstream, se ne parla meno e se ne parla molto spesso male, in una forma puramente propagandistica. Noi invece ci andiamo ad ascoltare per una fotografia reale di quella è la situazione del sottoattraversamento TAV fiorentino, chi sull'alta velocità ha le carte in regola per parlare con cognizione di causa. Allora, siamo qui con Tiziano Cardosi, un attivista storico del Comitato contro il sottoattraversamento Tunnel TAV di Firenze, e a cui gli chiediamo una fotografia di quella che è attualmente la situazione alta velocità appunto in città. Ma prima di questo, siccome il Comitato contro il sottoattraversamento Tunnel TAV era tra gli aderenti e ha partecipato alla manifestazione di sabato 30 marzo contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, gli chiediamo una valutazione dell'iniziativa e il perché della loro adesione alla stessa iniziativa. Allora, l'adesione è dovuta, è anche semplice, non è che siamo soltanto contro il sottoattraversamento, siamo contro tutte le grandi opere inutili, come ormai si chiamano oggi, cioè le opere che non servono veramente alle persone, non servono alla collettività, ma che servono soltanto a una minima parte di quella che si chiama oggi le. Quindi non potevamo non aderire a questa manifestazione. Le valutazioni mi sembrano molto positive. La partecipazione è stata veramente vita oltre le nostre previsioni. Dice che erano 6-7 mila. Forse potrei dire agli organizzatori una camminata così lunga e alla fine a Peretola è stata una porzione ridotta, praticamente la metà delle persone che c'erano all'inizio. Comunque, ancora chiaro segno che le persone, che la piana non vuole questo aeroporto, perché sarebbe veramente la tomba di ogni speranza di ripresa dal punto di vista ecologico, sociale, ambientale di quella zona. Ecco Tiziano, ritornando appunto alle grandi opere inutili e dannose, ritorniamo diciamo all'argomento principale della nostra intervista, alta velocità a Firenze, com'è la situazione attuale? Allora, quella dell'alta velocità è che i treni passano tranquillamente senza nessun problema. Se ci sono delle strozzature, se ci sono, queste non sono tanto a Firenze, attualmente con il traffico attuale, ma sono semmai fra il Valdarno e Firenze, perché in quel tratto di ferrovia che va, diciamo così, da Figline fino a Firenze Campo di Marte, la galleria di San Donato, c'è un po' il conflitto fra i treni a alta velocità e i treni dei pendolari, quei pochi rimasti che vanno in direttissima che raggiungono Firenze in poco più di 12 minuti, da Figline a Campomarte con un treno si fa in 12 minuti, quindi un tempo eccezionale. Lì ci sarebbero i problemi da risolvere, non nel pezzo che vorrebbero costruire di sopra attraversamento, che invece va da Firenze a Campomarte a Castello. Quindi secondo me sarebbero da risolvere un po' di idee, ce l'abbiamo insieme al comitato dei pendolari, abbiamo detto, cioè, si può fare in diverse maniere, sarebbero due strumenti. Uno, un adeguamento, un miglioramento dei sistemi di distanziamento di quella linea facendo sì che ci possano passare più treni nello stesso momento su quella tratta, quindi potendo rendere più fitto il traffico dei treni. E l'altro è velocizzare i treni dei pendolari. Noi non siamo contrari ad andare veloci coi treni. Siamo contrari a mandare soltanto una piccola parte del trasporto veloce e tutto il resto come lumache. Poi per quanto riguarda i cantieri, parliamo dei cantieri, sono sostanzialmente fermi dalla primavera del 2017. La talpa è ferma, questa famigerata. La talpa non si è mai messa in moto, la talpa è stata montata lì, io credo semplicemente per riscuotere le quote delle previste dal contratto. Ogni avanzamento di lavori corrispondeva a un pagamento e l'hanno fatto per farselo pagare. Tra l'altro vorrei far notare che quella talpa lì è una talpa che sostituisce quella originaria, che era stata montata, questo è venuto fuori proprio dalle inchieste della magistratura, era stata montata, non sarebbe mai potuta essere avviata, non avrebbe mai funzionato, ma era stata montata semplicemente per prendere i soldi previsti dal contratto. Ci sono degli aspetti in tutta questa vicenda che sono gravissimi, cioè quest'opera non è stata iniziata per essere finita, è stata iniziata semplicemente per essere pagata. Ecco. Ti dicevo i cantieri sono fermi dalla primavera del 2017, perché volevo ricordare un pochino alcune cose che magari si dimenticano, che i giornali le fanno dimenticare. Nell'estate del 2016 Nardella, il nostro sindaco, disse che il sottoattraversamento era una cosa stupida, non serviva a nulla e che si doveva potenziare le linee di superficie, c'erano nuovi sistemi di distanziamento che avrebbero aumentato le capacità delle linee e quindi si sarebbe dovuto abbandonare il progetto. Sembrava diventato un TAV il nostro sindaco. Ecco, da quel momento in cui il sindaco ha detto questo, anche lì i cantieri languivano, andavano avanti lentissimamente con pochi operai sopra, poche decine di operai. Tutto a un tratto i cantieri hanno preso un brio incredibile e sono andati avanti molto velocemente per pochi mesi, 3-4 mesi, è stato terminato, diciamo così, il primo piano, il primo solaio della stazione Foster. Ecco, questi hanno cominciato a correre perché avevano paura che l'appalto si fermasse e quindi volevano semplicemente macinare fatturate. Poi naturalmente tutto si è fermato perché mancano ancora un sacco di cose, manca soprattutto ancora la possibilità di smaltire le terre di scavo dei tunnel, perché la normativa l'hanno cambiata due volte, ma non è sufficiente a garantire lo smaltimento che vorrebbero loro. Quindi anche questo fa vedere che è un progetto proprio sbagliato da un punto di vista anche della progettazione. Da allora i cantieri sono praticamente fermi, ci sono dentro soltanto poche persone che si stanno interpretando. Ci tengo molto a un aspetto, io so se lo vorrei ascoltare, quello dei posti di lavoro che ci sono dalla realizzazione di questa infrastruttura, perché secondo me è un tema molto grosso, che riguarda sicuramente Firenze, ma riguarda un po' tutte le grandi opere inutili, tutte queste grandi infrastrutture. noi siamo veramente molto, molto irritati con Nardella, per esempio, che adesso è diventato nuovamente favorevole al suo attraversamento, e questo dalla misura di quanto i nostri politici non hanno una progettualità, ma sono semplicemente esecutori di progetti e di interessi che sono estranei alla città. Sono questi, sono impiegati di poteri forti. Dopo 10 anni che osserviamo queste cose, ne siamo assolutamente convinti. Ma dicevo, sta difendendo questo progetto con la scusa che questo garantirebbe posti di lavoro e che ci sarebbe una tragedia se i lavori occupazionale. Allora, andiamo un po' di numeri, perché a noi ci piace parlare di numeri, non di chiacchiere, non di lacrime di coccodrillo, perché queste sono veramente situazioni vergognose. Allora, nel periodo di maggiore intenso lavoro nei cantieri, quello a cavallo tra il 2016 e il 2017, gli operai sul cantiere erano 60, gli impiegati erano circa 40, non posso sbagliare di qualche unità, ma insomma siamo lì su questo, in generale, insomma, i lavoratori impegnati erano nell'ordine delle 100 persone. Quindi dimensioni veramente minime, diciamoci la verità, in confronto all'investimento fatto. Ora, se si tiene conto dell'investimento, di quello che è stato speso finora, lo dicono loro e non abbiamo capito come, perché dicono semplicemente le cose senza spiegarle. Dicono che sono stati spesi per ora 800 milioni per questo sorta di attraversamento. Ma scusa Tiziano, per la tratta di Firenze sono già stati spesi 800 milioni per una cosa che non è neppure iniziata sostanzialmente? Sì, praticamente i tunnel non sono assolutamente iniziati, sono state fatte dei lavori alla Foster, è stato scavato un po' alla Foster, siamo arrivati, il solaio è praticamente a livello del terreno, sono stati scavati 5-6 metri di terreno, lo scavo dovrebbe essere di 25 metri, sono stati fatti dei lavori a Campo di Marte, a Castello, è stato fatto lo scavalco, sì, quello è completato, è un ponte praticamente, è un ponte che c'è nella zona del vicino al Sodo, esatto, sì. Ma quelli sono già i lavori fatti, ma dello sottoattraversamento ne è stata fatta una porzione veramente minima, più che altro lavori alla Foster, ma del sottoattraversamento dei tunnel nemmeno un centimetro. E dicono i nostri politici, io ripeto, non so sulla base di che cosa, perché i bilanci di Nodavia parlano di altre cifre, sono stati spesi 800 milioni, allora con 800 milioni noi abbiamo fatto un conto, per esempio, per ristrutturare un edificio dismesso utilizzabile per realizzare edifici di residenza, quindi potremmo fare anche case popolari, ogni appartamento verrebbe a costare circa 150.000 euro di ristrutturazione. Se dividiamo 800 milioni per 150.000, otteniamo la cifra di 5.333 appartamenti che si potrebbero ristrutturare. E con quella cifra, cioè, si potrebbero ristrutturare con 800 milioni più di 5.000 appartamenti. Allora, ci immaginiamo quanta manodopera si impiegherebbe per realizzare un progetto di queste dimensioni? Qui veramente ci si dimentica che queste grandi opere sono, come dicono gli economisti, capital intensive, cioè ad alto uso di capitali e tecnologie, con una quota marginale di manodopera. La manodopera che si usa in questi cantieri è bassissima. Difendere questi cantieri dicendo che generano posti di lavoro è falso. Questo era vero forse 50 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa, quando le terre venivano portate via con le carriole. Oggi è tutto automatizzato. I posti di lavoro si creano in altra maniera. Nell'edilizia, per esempio, la ristrutturazione. La ristrutturazione sarebbe una cosa ottima, perché non implicherebbe occupazione di nuovo suolo libero e riutilizzerebbe strutture inutilizzate e darebbe veramente servizio alle persone, perché a Firenze per esempio ci sono tanti problemi, ma un problema è quello della casa. Io so che ci sono solamente censiti 2.000 persone che sono senza tetto. In una città come Firenze una cosa del genere è una vergogna. Io fossi sindaco della Firenze mi vergognerei di una cosa del genere e la prima cosa che vorrei fare è trovare un tetto per queste 2.000 persone, ma che ripeto sono quelle censite, saranno molte di più. Ecco, facendo questi servizi si creerebbero molti più posti di lavoro. Oppure mettendo in sicurezza le scuole, gli edifici pubblici. Certo, io ho fatto semplicemente un esempio di quello che si potrebbe fare, ma secondo me trovare la casa è anche bello grosso, insomma a Firenze, è anche bello grosso, certo, quindi certo. Andrebbe affrontato in qualche maniera. In questa maniera si potrebbe anche ridurre l'impatto della speculazione che c'è intorno al mondo dell'immobiliare, risolvere meglio, si potrebbero riportare i cittadini ad abitare a Firenze, insomma ci sarebbero tanti benefici, ecco, su questa cosa. Poi certamente, ma vediamoci, c'è cioè, tutta la messa in sicurezza del territorio, cioè gli Appennini stanno franando, gli Appennini sono abbandonati. Anche lui sarebbe un capitolo, io magari ti consiglio anche di affrontare il problema dei terremoti e di come non sono stati risolti i problemi dei terremoti. Praticamente sia all'Aquila, ma soprattutto nel terremoto che c'è stato dopo, i terremoti sono stati 4, nelle Marche, nell'Umbria e in Abruzzo. Praticamente non c'è stata ricostruzione delle abitazioni, si sono anche lì realizzate infrastrutture e la gente è ancora senza casa, qui. Quindi la grande opera da fare sarebbe mettere in sicurezza o ristrutturare edifici già esistenti invece di sprecarli appunto. In questo caso nel sottoattraversamento TAV. Certo. Ci sentiamo un pezzo musicale. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Eccoci qua, ecco Tiziano, hai parlato di Nodavia, ma ci puoi aiutare a definire un attimo questa mappa di chi è che fa, che dovrebbe scavare a Firenze, chi è il proprietario della tavola, insomma, questi soldi a chi vanno, ecco. Allora, vediamo, facciamo un po' la storia del progetto. Il progetto di questo attraversamento andò a una gara, mi pare costata, ora non mi ricordo le date esattamente, ma alla fine degli anni 90, fine del 2000, e fu vinta da una cooperativa che si chiamava COPSET. COPSET, una volta vinta questa gara con una riduzione dei costi del 25%, una cosa che veramente dovrebbe mettere in guardia, perché ribassi così forti non sono credibili. Fu vinta COPSET creò per eseguire l'opera una società apposta, completamente controllata da loro, con anche la presenza di un'altra società che si chiamava Erdon Engineering. Ma diciamo erano loro che controllavano più del 90% delle azioni, questa Nodavia. Nodavia era una società nata semplicemente per realizzare il sottoattraversamento. Poi col tempo COPSET ha avuto grossi problemi economici, oltre che giudiziari, perché in tutta Italia è stata molto più che chiacchierata, è stata sottoposta a processi anche molto importanti, praticamente è fallita, trascinandosi dietro un sacco di lavoratori, di pensionati, e tutta la zona dell'Emilia Romagna che aveva messo i propri risparmi in obbligazioni questa cooperazione. Fallita la cooperativa, per non chiudere un progetto, è intervenuta Condotte S.p.A. Condotte è una società molto grossa, storica, una delle più grandi che ci sono in Italia. Da quanto è venuto fuori dalle dichiarazioni dei stessi dirigenti di Condotte non volevano prendere questo progetto, perché sapevano che c'era un tesoretto di soldi, c'era un contenzioso nascosto per cui avrebbero dovuto avere soldi indietro notevoli, quindi c'era la possibilità di avere soldi che ancora Nodavia non aveva riscosso, ma comunque non era molto gradita questa opera, perché sapevano che era praticamente difficilissima realizzazione. L'hanno presa perché volevano acquisire una società, invece quella molto importante, mi pare fosse INSO, una società che produce software medicale, e quindi diciamo, in qualche maniera sono stati costretti anche a cercare di rinnovare Nodavia. Nel frattempo Condotte sta in gravi difficoltà economiche, adesso è commissariata e non si sa che fine farà. Tra l'altro in questo suo percorso fallimentare c'è il rischio che si tiri dietro e che distrugga anche imprese controllate da loro che sono molto floride, come la stessa Inso. Come mai ci sia questa crisi? Ecco, questo sarebbe un altro argomento che sarebbe da approfondire, perché molte di queste imprese di costruzione oggi sono in forte crisi. Quindi questa è la ditta responsabile del sottoattraversamento, cioè quella a cui ha demandato i lavori del sottoattraversamento TAV a Firenze. Comunque in questa situazione Condotte non è in grado di eseguire lavori. Se venisse salvata, se le banche si fidassero, facessero un investimento e dessero dei prestiti sostanziosi, si parla di 190 milioni di euro, a Nodavia forse i lavori potrebbero ripartire. Dalle notizie che si hanno, le banche non hanno assolutamente intenzione di rischiare cifre di queste dimensioni, anche perché è abbastanza chiaro che questo progetto sarà di difficilissima realizzazione. Se venisse affrontato avrebbe aumenti dei costi vertiginosi, per cui al momento è tutto dormiente, però c'è una cosa che non dorme: i soldi non dormono mai, quei cantieri anche se fermi costano, i cantieri fermi stanno costando. Noi ci siamo messi a leggere l'ultimo bilancio di Nodavia, questa società che costruisce e controllata da Condotte, e abbiamo visto che ci sono extra costi, oltre quelli pattuiti del contratto, enormi. Praticamente i costi sarebbero triplicati e molti di questi aumenti dei costi sono dovuti a cantieri fermi o rallentati. Racconta molta notizia, no? E allora, volete le cifre? Abbiamo le cifre che ci danno Davia e che sono della primavera del 2017. Sono un po' vecchi, ma dopodiché, ripeto, i cantieri sono stati praticamente fermi. È stato realizzato opere per un valore di 275 milioni circa. Ma nel tratto di Firenze? Su un appalto di 800 milioni. L'appalto per cui è stata vinta la gara è di 800 milioni. È stato fatto il valore di 275 milioni. Se togliamo da questa cifra il costo di quello scavalco che vi dicevo prima, a questo ponte che hanno fatto lì a Firenze Nord, che è costato, da quello che ci risulta, circa 90 milioni di euro, il valore di quanto realizzato è meno di 200 milioni di euro, quindi una frazione veramente anche piuttosto modesta di questi lavori. A fronte di queste cifre, cioè di meno di 200 milioni di valore, questi pretendono costi ulteriori, quindi pagamenti ulteriori per 399 milioni, cioè 400 milioni, a fronte di quindi 180-190 milioni di valore realizzato, questi vogliono 400 milioni in più. Questo è il livello di sperpero di soldi, di aumento dei costi che c'è in questo progetto. Questo, lo ripeto, l'abbiamo rilevato dai bilanci di Nodavia, gli ultimi bilanci dopo gli ultimi lavori fatti, perché adesso è tutto fermo. E dopo appunto una spiegazione molto, molto esaustiva rispetto a quello che sta succedendo alla stazione Foste, gli chiediamo qualcosa più di preciso rispetto al sovrappasso, a quello che è successo, a una fotografia di quello che sta succedendo, di quello com'è la situazione nella zona di Firenze Nord, di sovrappasso di Castello. Allora, lì è stata realizzata un'infrastruttura che si chiama scavalco, che è difficile spiegare cosa sia se non si vede, ma sostanzialmente sono una coppia di binari, cioè una linea ferroviaria che scavalca un'altra linea ferroviaria poi riallineando succede il non è un ponte vero e proprio, ecco. No, non è, no, non è proprio un vero ponte, cioè sono è la linea che esce dalle gallerie dell'alta velocità e che si solleva, scavalca la linea, scavalca due binari che arrivano da Prato e ritorna in quota subito dopo averla diciamo scavalcata, ecco. Il suo scopo, lo scopo di questo scavalco sarebbe quello di rendere indipendenti i percorsi che arrivano dall'alta velocità della nuova linea e che vanno a Santa Maria Novella. Quindi diciamo è una struttura fatta apposta per privilegiare Santa Maria Novella come stazione dell'alta velocità. Quindi diciamo ormai il tunnel non sarebbe neanche più credibile. Poi il problema, secondo me i problemi del nord-ovest non ci sono problemi assolutamente di carenze infrastrutturali, anzi tra Firenze Rifredi e Prato ci sono oggi quattro binari che sono assolutamente sovradimensionati, cioè una linea moderna come quella potrebbe sostenere un traffico di 600 treni al giorno. Sono sottoutilizzati, sì. Sono sottoutilizzate, sì. Ecco, secondo me anche una riflessione andrebbe fatta su questa vicenda, perché non sapendo più come giustificare la realizzazione di un progetto come sottoattraversamento, si dice che libererebbe i binari di superficie. Ora, si potrebbero liberare i binari di superficie anche mettendo dei binari in più in superficie. Non si capisce perché si deve andare sottoterra, si possono fare anche per l'aria, insomma, si possono fare anche a livello del suolo e binari in più. Non è facile perché la città è densa, ma si possono fare. Allora, nella zona che va da Rifredi a Prato, praticamente i binari di superficie sono stati liberati. Ma addirittura fino a Bologna, la linea direttissima costruita negli anni 30 da Firenze a Bologna è praticamente vuota di treni a alta velocità e di treni a lunga percorrenza. Quindi lì si potrebbero far passare i treni che si vogliono. Il risultato qual è? Una volta, prima che esistesse la galleria del Mugello, che esistesse la nuova linea, i treni impiegavano circa un'ora da Firenze a Bologna. Oggi, se volete andare a Bologna senza prendere l'alta velocità, occorrono 2 ore ed è necessario quasi sempre cambiare a Prato. Quindi, ecco, liberati i binari di superficie, il servizio è peggiorato in maniera colossale. E questo, mi domando perché al Ministero delle Infrastrutture non dicono nulla, perché questa operazione di sabotaggio, perché è sabotaggio delle linee di superficie, è semplicemente per costringere le persone a prendere i treni dell'alta velocità, che hanno dei costi molto superiori. Io credo che le persone che vanno a Bologna e che possono perdere un'ora di tempo invece di 35 minuti, ma spendendo meno della metà, lo potrebbero fare benissimo. Invece si costringono ad andare sui treni ad alta velocità, perché non ci sono alternative. Nardella ultimamente ha rilasciato le dichiarazioni rispetto a il nodo TAV, l'attraversamento TAV fiorentino. Ci puoi fare dei commenti a proposito? Sì, devo dire che Nardella sta lanciando la sua campagna elettorale cannibalizzando, proprio letteralmente cannibalizzando alcuni temi che i movimenti hanno portato avanti in questi ultimi anni. In particolare sostiene quello che si chiama il treno metropolitano, un'idea peraltro vecchia di parecchi anni che anche il nostro comitato insieme all'università aveva preso nel 2007-2008. Cioè l'idea di creare un servizio di treni cadenzato abbastanza fitto che dalle tre grosse direttrici ferroviarie che andavano su Firenze portasse i pendolari intercettando perlomeno una bella fetta di automobili che corrono sulle strade normali. Il problema di Nardella è che si vede che è semplicemente campagna elettorale e che lega la nascita di questo treno metropolitano alla realizzazione dei tunnel del sottoattraversamento. Ora, i tunnel sotto attraversamento sono fermi per tanti motivi, non soltanto per il fallimento sostanziale di Condotte che dovrebbe fare lavori, ma anche perché ci sono grossi problemi progettuali non risolti. E comunque ci vorrebbero almeno 10 anni di cantieri per realizzare quest'opera. Il che vuol dire il treno metropolitano si farà nel 2000 mai, cioè non si farà proprio, cioè è veramente un'uscita pubblicitaria e basta. E se si volessero potenziare le linee in superficie si potrebbe fare tranquillamente in un paio d'anni, se si volesse, e il treno metropolitano si potrebbe introdurre fin da subito con poche cose, il più importante sarebbe trovare treni e personale che le guidi, cosa che manca. Quindi è semplicemente campagna elettorale è fatta anche in maniera irritante nei nostri confronti, perché è quello che diciamo da più di 10 anni e non siamo mai stati ascoltati e si è sempre rifiutato ogni confronto. Che ora venga fuori, sembra sia una sua idea, è una cosa veramente fastidiosa. Senti Tiziano, hai parlato di noi, comitato contro il sottoattraversamento sul NetTav, ecco, cosa state facendo? E anche come vi si può contattare? Allora, noi stiamo facendo sempre polemica quando ci sono queste uscite, facciamo polemica e soprattutto cerchiamo di capire dai documenti a che punto siamo, e l'abbiamo fatta appunto leggendo un po' i bilanci ultimamente e rendendoli pubblici. Dove ci si può trovare? Noi siamo su Facebook, basta cercare Comitato No Tunnel TAV Firenze e appariamo noi. Abbiamo anche un blog che si chiama No TAV Firenze, un blog di Google, quindi si trova bene, No TAV Firenze Blogspot. Basta cercarci e si trovano i documenti che gli ultimi documenti abbiamo messo. Ecco. C'è parecchia roba, c'è anche diciamo il progetto di potenziamento delle linee di superficie che Nardella ci sta cannibalizzando in questi giorni. Ti ringraziamo allora, ti salutiamo. Benissimo, grazie a voi e buona giornata a tutti. Ciao ciao.